Caos, episodio 33. Bentrovati a tutti, non ci credete voi, non ci credo neanch'io, sono tornato al microfono dopo non so più quanti mesi, ormai ho veramente perso il conto del tempo che ho passato lontano da questo microfono e oggi avevo effettivamente un pomeriggio un po' di clausura forzata in quanto ogni mezzo di trasporto mi ha lasciato la moto, mi ha lasciato la macchina. E rimango a piedi in un'altura genovese che non è così diciamo comoda per il centro e le altre zone dove si concentra la vita cittadina e quindi alla fine ho deciso di stare un po' più in eremitaggio quest'oggi e ho detto perché non provare e vedere se riesco a fare l'upload di un episodio. Per chi non ha per chi ha ancora conservato il feed del podcast nonostante i mesi d'assenza avrà trovato un piccolo contributo molto veloce in cui appunto spiegavo semplicemente che avevo trovato un modo per diciamo uploadare i file audio. Infatti questo è stato uno dei più grossi problemi che ha fermato il Rockhouse Podcast, che l'hosting di Blip è diventato a pagamento, quindi fuori dalle mie possibilità. E comunque agli altri servizi o sono a pagamento o hanno troppe limitazioni e noi non vogliamo le limitazioni, non ci piacciono le limitazioni. Infatti poi ho trovato questo Our Media di Internet Archive, che fanno sempre, sono più o meno la stessa famiglia a quanto ho capito. Comunque questo Our Media permetterebbe l'upload di file di qualsiasi tipo. Adesso vedremo se effettivamente mi farà fare l'upload di un episodio completo e anche piuttosto pesantino, perché comunque insomma ho intenzione di testare la pesantezza di un episodio, quindi di testare qualcosa di tosto, si può dire testare qualcosa di tosto, vabbè, si sente che non sono più abituato a stare davanti a un microfono, almeno a parlare davanti a un microfono, perché cantare comunque ultimamente si è cantato abbastanza, a parte l'ultimo mesetto, quindi l'attività live della Bio Blues Gang continua. Invito tutti coloro fossero insomma in zona o non troppo lontani da Albisola a venire a sentire il concerto, insomma, a cui seguirà poi una pausa più o meno lunga della Bio Blues Gang ad Albisola sulla passeggiata a mare il 27 di luglio, quindi accorrete. Bene, dopo questo sproloquio introduttivo che mi aiuta un pochino ad abituarmi di nuovo al microfono ed abituare voi che è un po' che non sentivate questa mia vociaccia roca, direi di passare al primo pezzo. E quest'oggi la musica del Rockhouse Podcast sarà un po' meno rock e un po' più blues, così, perché mi andava. E poi c'avevo già la scaletta pronta da tipo 6 mesi e quindi volevo mandare la musica che avevo scelto mesi or sono. Ok, quindi il prossimo pezzo è di Chris Daniels, è un live e Chris Daniels and the Kings e si intitola Jump, saltate, quindi preparatevi pure a scuotere un po' le chiappe perché questo è un pezzo da ballare. Enjoy! Yeah. spell before we hit the barn. Back in the haystack and rolling in my baby's arms. Eccoci tornati, questo live è tagliato un po' malino, potevano farlo sfumare un pochino. Sono molto contento di essere al microfono, accidenti quanto mi era mancato. Spero che per qualcuno di voi non sia che palle, è tornato, ma che anche a voi sia mancato un pochino il Rockhouse Podcast. Poi non lo so, non vi posso assicurare niente, ma spererei di riprendere prima o poi, ma l'ho sempre detto e vedremo se ce la farò. Comunque innanzitutto vedremo se riuscirò a fare l'upload di questo episodio. Ora dunque, come di consueto, c'è sempre un po' di angolo di cazzi miei, no? E vi racconterò un po' di questa mia esperienza abbastanza breve ma intensa, ma neanche tanto breve. Tutto sommato, negli States, attenzione, sono andato negli Stati Uniti per la prima volta nella mia vita ed è stata una bella esperienza. Sono andato a Seattle, quindi Seattle è patria della musica grunge, come molti di voi sapranno, ma non solo della musica grunge, anche perché insomma Seattle è stata la città che ha dato i natali al buon Jimi Hendrix, quindi cioè, non c'è bisogno che dica nient'altro su Jimi Hendrix. E quindi insomma la storia della musica si è fatta per una buona parte anche a Seattle tra Nirvana e Jimi Hendrix. E io consiglio una visita di Seattle a tutti, perché insomma intanto è una città fuori dalle mete turistiche italiane, nel senso che non ho trovato neanche un italiano che visitasse Seattle, e questa è una cosa buona. E poi insomma è una gran bella città, è proprio bella, cioè non è grandissima, non è enorme, ci sono i suoi grattacieli da buona città americana, sicuramente c'ha il suo business center molto molto così, molto moderno, eccetera eccetera, però è una città comunque si gira tranquillamente a piedi, non è una città pericolosa, la gente è molto cordiale. Ho scoperto che gli americani nella loro patria, o quantomeno gli americani di Seattle, quindi nel nord ovest, Sì, nord-ovest, giusto. E, nel nord-ovest, insomma, sono molto, molto simpatici, sono molto meglio di come si incontrano, diciamo, in giro nelle mete turistiche europee, ad esempio. Insomma, sono abbastanza insopportabili gli italiani, e gli italiani, anche gli italiani, però sto parlando degli americani. Il turista americano è una brutta razza, effettivamente, però devo dire che mi sono trovato molto, molto, molto, molto, molto bene con tutti i locali, persone molto gentili, molto disponibili, un po' sboroni, quello ce l'hanno proprio dentro, però comunque sono trovato molto bene. E a proposito, intanto, vabbè, non vi ho detto perché sono andato a Seattle, che è una meta così atipica per un viaggio negli States. C'era una conferenza di biologia marina, una conferenza che scusate, è la conferenza mondiale più importante nel mio campo di studio, nel biofouling, nell'antifouling. E qualche volta ne abbiamo già parlato nel corso di episodi, poi mi riprometto sempre di fare un episodio che parla solamente di questo, però poi ne parleremo in futuro, poi adesso ci sono anche altre cose, ma andiamo avanti. Comunque sono andato lì per una conferenza di una settimana, bella intensa, e poi sono riuscito a fare 4-5 giorni di vacanza. La cosa molto bella, che mi ha fatto secondo me anche godere parecchio l'esperienza statunitense, è che ci sono andato tramite couchsurfing, e vi parlerò anche di questa esperienza. Couchsurfing.org, che mi piace un sacco, è una comunità, di una community online di persone che mettono a disposizione il proprio divano a gente che viaggia nelle loro zone. Quindi chiunque abbia bisogno di pernottare in una città può contattare tramite questo sito e venire comodamente a sdraiarsi sul divano e dormire, quindi passare la notte lì. E poi, insomma, non ci sono regole, quindi ci si può, che ne so, passare un po' di tempo insieme, ma anche no. Se uno non ha tempo, non ha voglia, si può preparargli una cena, ma anche no. Si può dargli le chiavi, ma anche no. Non ci sono regole, è semplicemente un'ospitalità, che le regole vengono decise da chi ospita, chiaramente. Quindi io mi sono trovato molto bene, ho già ospitato delle persone e ho avuto sempre delle buone esperienze. E in più devo dire che la mia prima esperienza da ospitato negli Stati Uniti è stata molto molto molto bella, molto, molto interessante, molto divertente. Perché, insomma, sia Justine, che la prima coach surfer, così si chiamano quelli che partecipano a questa community online, che mi ha ospitato, in casa sua col suo gatto per circa 4-5 giorni, e poi anche è stato fantastico anche stare nel basement, nel seminterrato di una casa tipica americana con giardinetti, un po' di periferia, e in casa con quattro ragazze, non tutte di Seattle, alcune venivano da altre parti degli Stati Uniti, che vivevano lì, un po' fricchettone, quindi è stato carino. Quindi, insomma, salutiamo Calissa, salutiamo Emerys, salutiamo Marianne e Jamie, che ci hanno ospitato, anche se non credo appunto che ascolteranno il podcast, anche perché è tutto in italiano, per loro sarebbe un po' difficile da seguire. Ho detto ci hanno ospitato, perché mentre la settimana del congresso ero da solo, ospitato da Justine, la seconda parte della mia vacanza statunitense sono stato ospite insieme a Guillaume, un mio amico diciamo irlandese, che poi lui è francese, che comunque era un mio collega in Irlanda, un mio collega e amico in Irlanda, si è trasferito a Singapore, e ci siamo ritrovati alla conferenza ed abbiamo approfittato per farci qualche giorno di vacanza. Seattle merita, a parte appunto l'esperienza personale di couchsurfing, è proprio una meta consigliata. Vi segnalo un paio di cose: l'EMP, che è assolutamente da vedere, l'Experience Music Project, in cui si parla solo di musica, come potete intuire, e a cui è allegata anche una mostra sulla science fiction. quindi con e anche sugli horror movies tutti insieme. Qui ci sono un sacco di curiosità e cose interattive e oggetti di scena. Ho visto una delle sedie, immagino che siano più di una delle sedie del capitano Kirk, la divisa di Data e di Uhura, poi non so, la spada laser di Guerre Stellari, il guanto di Nightmare, e poi la sezione tutta dedicata a Avatar con tutti i vari oggetti di scena con che sono riprodotti, sono gli originali oggetti di scena, ma sono costruiti come cose vere. Incredibile l'elevato dettaglio di quelle cose. Comunque l'EMP sicuramente consigliato, il sicuramente consigliato anche l'acquario, perché comunque ha il suo fascino, molto carino, fatto dal punto di vista didattico e molto interessante. E poi tante altre cose, adesso vi consiglio queste due cose, ma se volete consigli su una vacanza a Seattle, contattatemi pure, e perché insomma tra le cose che ho fatto e le cose che so che si possono fare, ci sarebbe ancora tanto da dire, da fare, vi posso indirizzare un po' in questa particolare vacanza statunitense. Bene, direi che a questo punto potremmo passare al prossimo pezzo. Io non so bene se sono stato chiaro ed esauriente. Vi ripeto che insomma, non essendo più abituato a stare davanti a un microfono a parlare da solo, davanti al mio computer, potrei aver esplorato un po'. Però fa niente, passiamo al prossimo pezzo, sempre più o meno sullo stesso standard musicale. Questo è Barry McCabe e il pezzo si intitola Rolling. At all. Barry McCabe, Rolling. Direi un bel tiro, bravi, bravi. Questi qua sono pezzi che potremmo fare con la nostra gang. Sono pezzi, sì, che più o meno rientrano nel nostro stile. Bene, ma prima che il tempo si faccia tiranno, siamo già a 20 minuti, ebbene sì, c'è il ritorno di una... insomma, la rubrica più famosa di tutto il panorama dei podcast indipendenti italiani. Eccolo qui, l'angolo del biologo saccente. Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato. Ciao Julien, sono Zach e lascio questo messaggio nella segreteria telefonica del biologo saccente per sapere qualcosa in più sulle formiche. Ho preso spunto perché qualche tempo fa ho visto il film Assalto alla Terra, titolo originale Dem, col punto esclamativo, un film del 1954 in cui c'è un attacco al genere umano da parte di formiche giganti, ingigantite dopo test nucleari. A un certo punto del film, un professore fa vedere ad una commissione un filmetto, come lo chiama lui, sulle formiche. Ecco l'audio del film. Queste formiche che voi vedete sono comuni in America. Sono quelle che tutti avrete visto nei campi, nei prati o nei cortili delle zone a clima temperato. Questi insetti non hanno cambiato le loro abitudini per più di 50 milioni di anni. Eccone qui per esempio un campione chiuso in un pezzo di ambra che sappiamo essere di milioni d'anni fa. Queste invece sono di tutt'altro tipo. Quella lì grossa, che si ciba di formiche più piccole, è di una specie aggressiva chiamata Camponotus vicinus Mayr. Vive nelle zone desertiche ed è perfettamente identica a quelle gigantesche che abbiamo trovato noi. Questo è un piccolo formicaio. Quelle bianche sono le uova. Le formiche vedono poco, percepiscono con quella specie di radar che sono le antenne. Dopo aver localizzato il cibo o un nemico con le antenne, entrano in azione le mandibole. Ora osservino questa dimostrazione di forza. Una pietra ha bloccato un formicaio. L'insetto è deciso a sgombrare la via. Guardino come riesce a prendere la pietra e a levarla di mezzo col modesto aiuto di un'altra formica. Ecco la stessa pietra su una bilancia di precisione. Per equilibrarla ce ne sono volute 20 di formiche. Uno di questi insetti lungo 8 mm può alzare 20 volte il suo peso. È come se un uomo potesse alzare una tonnellata e mezzo. Ed ecco una formica regina attorniata dai suoi molteplici consorti. Beh, per l'esattezza bisognerebbe chiamarla principessa finché non è volata a nozze. Ecco qui, questo è un maschio con le ali. I maschi hanno vita breve, muoiono subito dopo le nozze. La regina invece vola, o più esattamente è portata dai venti, finché non si è trovato un posto per deporre le uova. La regina può abbandonare il suo nido dopo che se lo è scelto? No, mai. Perde le ali subito dopo il volo di nozze. Vedete? Una è caduta adesso. Ecco, adesso si dà da fare per trovare il luogo adatto per incominciare a scavare il formicaio. Le regine vivono a lungo e continuano a deporre uova dalle prime nozze per più di 15 anni. Queste stanno combattendo. Come vedete, sono aggressive, tenaci e molto coraggiose. Pensate che la lotta fra queste due è durata 73 ore. Le formiche sono i soli esseri al mondo, oltre l'uomo, che fanno la guerra, aggrediscono, fanno piani strategici e fanno prigionieri che costringono a lavorare per loro. Fino a questo momento non si conoscevano formiche più lunghe di 3 centimetri, anzi, quasi tutte erano di dimensioni minori, ma anche i più minuscoli di questi insetti hanno un istinto naturale per il lavoro, per l'organizzazione e per la guerra da fare invidia perfino al genere umano. Vorrei sapere dal biologo saccente altre curiosità sulle formiche e se le affermazioni fatte in questo film sono corrette oppure no, magari per esigenze di copione o perché, essendo un film del 1954, nel frattempo le conoscenze sulle formiche sono cambiate. Ciao, grazie e a presto. Ciao Zach, grazie per il tuo contributo, molto carino, tra l'altro anche col contributo audio dal film Vem, molto molto bello, bello, bravo, bravo Zach. E poi diciamo che se sono qui a registrare è in parte, buona parte anche perché tu mi avevi mandato questo contributo. Non posso sopportare di pensare che c'è un contributo a cui non è stata data risposta. Tu comunque hai fatto lo sforzo di confezionare il contributo, io dovevo fare un episodio, quindi assolutamente l'avrei fatto, magari non subito, magari col tempo, come poi è stato, però dovevo assolutamente farlo per rispondere alla tua domanda. Innanzitutto devo dire che il filmetto che è stato proiettato all'interno del film è abbastanza... risponde abbastanza alla verità, le cose che dice sono tutte cose vere. Chiaramente esaspera un pochino il discorso della guerra. Sì, è vero che le formiche sono così, diciamo che fanno la guerra tra di loro, però non è una guerra come quella umana, è una guerra più dettata da esigenze vere, reali. Chiaramente non è una guerra per il potere, ma è per la sopravvivenza e per il benessere della colonia. Infatti una cosa che poi, ecco, diciamolo, loro fanno l'altra piccola imprecisione, che parlano delle formiche come se tutte le formiche fossero uguali. In realtà ci sono non so più quante migliaia, mi sembra che siano circa 5.000 specie di formiche, quindi è veramente una cifra enorme, se ci pensiamo, e ogni specie ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Gli occhi più grandi, gli occhi più piccoli, ci vedono meglio, ci vedono peggio, sono più solitarie, più meno solitarie, c'hanno, tutte comunque sono caratterizzate da un forte sviluppo della vita sociale, quindi sono comunque hanno una socialità molto sviluppata le formiche, hanno dei comportamenti molto particolari, però possono variare chiaramente a seconda dell'ambiente in cui si trovano, della specie di cui parliamo, eccetera eccetera. Quindi non si può dare delle regole generali sulle formiche in genere, però è vero che quello che ha detto è vero per la maggior parte delle specie che conosciamo, quelle più comuni, quelle che vediamo ogni giorno, quelle che ci vengono a rompere le scatole in casa, quelle che vediamo sui prati, è effettivamente quello. Poi tutte le altre specie hanno una marea di diciamo di variabilità, un sacco di cose che possono essere diverse da un posto all'altro e da un organismo all'altro. Un paio di curiosità, allora una che è un po' da nerd in più rispetto a quello appunto che si diceva nel filmetto, che lì chiaramente non viene citato, non aveva senso per il film, ma probabilmente non si sapeva ancora, oppure se si sapeva non era così popolare o poteva suscitare la curiosità della gente normale che non era addetta ai lavori. Le formiche hanno ispirato una serie di algoritmi che servono poi ai programmatori e in ambienti sia informatici che non, e ce n'è uno che si chiama ACO, che è l'Ant Colony Optimization, che è molto, molto usato, e ce ne sono altri in studio. È stato pubblicato qualche anno fa, un paio di anni fa, anche un articolo sul Journal of Experimental Biology, quindi chiaramente non sul Corriere dei Piccoli, cioè su una rivista internazionale scientifica con peer review, quindi insomma con un controllo sui contenuti eccetera eccetera, e in cui un gruppo di Sydney aveva studiato il comportamento di alcune formiche, le formiche che vengono chiamate formica argentina, all'interno di un particolare labirinto. E quindi avevano visto, insomma, come loro percorrevano sempre la strada più, più conveniente, e quindi poi anche in presenza di ostacoli riuscissero a trovare la strada più conveniente in presenza di ostacoli. Quindi, insomma, una serie di facilitazioni che poi, trasposte ad esempio nella vita comune, potrebbero dare appunto vantaggi, ad esempio per risolvere problemi informatici. E nell'articolo che vi cito, che è un articolo di qualche anno fa, dice che appunto è questo problema, che è conosciuto come il problema del commesso viaggiatore, una cosa piuttosto nota chi si occupa di intelligenza artificiale, di teoria dei giochi, e le formiche possono aiutare a risolverli. E quindi le formiche incredibilmente ci aiutano anche nella tecnologia moderna. Ma invece, andando sul più becero, sul una cosa che mi aveva colpito, mi ricordo quando avevo studiato il comportamento sociale delle formiche all'università, è questo comportamento della trofallassi che hanno alcune specie. La trofallassi è nient'altro che è un modo per riconoscere i membri della stessa colonia. Infatti, non so se avete mai fatto questa prova, potete farlo, per la scienza si può anche fare. Se voi prendete una formica di un altro formicaio, la mettete vicino a un formicaio che non è suo, inizialmente le formiche dei due formicai diversi si incontreranno, si studieranno con le antenne, dopodiché decideranno se ammazzarsi di botte o no. E questa è una cosa abbastanza normale, questo perché appunto loro devono proteggere la propria colonia dagli intrusi, perché potrebbero rubare risorse, introdurre malattie, eccetera eccetera. E questo succede per alcune specie, non per tutte, con un meccanismo di vomito, nel senso che quando due formiche si incontrano una vomita e riconosce l'odore di questa secrezione, e l'odore della secrezione è uguale a quella della colonia, cioè a un odore comune. Le colonie sono caratterizzate da segnali chimici e odore molto particolari, quindi tutti i membri della stessa colonia avranno dei segnali chimici identici. Chi non ha quei segnali chimici è fregato, perché se arriva in prossimità della colonia verrà attaccato e ammazzato. Pensate che addirittura ci sono invece delle formiche che riescono a infiltrarsi all'interno delle colonie e a vivere da parassiti delle colonie, però sfruttano il fatto che all'inizio, quando la colonia viene stabilita dalla regina, ancora la colonia non ha acquisito il suo odore caratteristico. Quindi loro riescono a approfittare del momento in cui la colonia ancora non è caratterizzata da questi segnali chimici, introdursi e vivere da parassiti all'interno della colonia. E queste sono incredibili, queste cose qua. Sono la natura, gli adattamenti della natura e l'evoluzione hanno portato a tutte queste incredibili variabili e modalità per sopravvivere, per vivere. Un'altra cosa molto carina, non so se l'avete mai notata, se voi vedete delle formiche morte nei pressi del formicaio, le formiche vengono portate via dalle formiche vive, diciamo. E questa è una cosa curiosa, tutto sommato, perché uno si chiede perché bisogna portare via i morti. In realtà è proprio una protezione per la loro colonia. Infatti, se la colonia si infettasse con batteri dovuti, che ne so, alla decomposizione del cadavere della formica, potrebbero morire tutti per qualche malattia, quindi sarebbe a rischio tutta la colonia. E quindi ci sono formiche che si occupano proprio di portare via i morti. C'è una particolare sostanza, un acido oleico per alcune specie, che viene secreto dalle formiche morte. Quindi la formica viva riconosce la formica morta da questo segnale chimico, la prende e la porta via. In altre specie invece è l'assenza di un certo odore che gli fa capire che la formica è viva, allora la formica è morta e la porta via. Quindi, come vedete, la vita delle formiche è intimamente legata a una serie di segnali chimici che influenzano veramente profondamente la vita sociale delle formiche, che è probabilmente un po' quello che siamo noi, nel senso che noi ci mettiamo anche la ragione, ci mettiamo la testa, ci mettiamo tutti i pensieri e i castelli che possiamo farci, però ahimè bisogna rassegnarsi, noi siamo schiavi della chimica e non ci possiamo fare niente. Quando la chimica entra in azione non c'è pensiero che tenga, istinto di conservazione che tenga a volte, ma la chimica ci comanda e ci guida in molte delle nostre decisioni, anche se non ce ne rendiamo conto. E adesso vi lascio al prossimo pezzo, che si intitola Rocket Science di Brain Bucket. Eccoci tornati qui su Rock House Podcast, episodio 33. Abbiamo fatto anche il nostro bel intervento su, insomma, su un po' di scienza. E a proposito di scienza, vi volevo ricordare, a chi ancora non lo sapesse, che una delle cose che mi avete anche tenuto fuori un po', cioè lontano dai microfoni del Rock House Podcast, è stato l'impegno che non è enorme, però comunque è un impegno con Scientificast, il podcast di divulgazione scientifica. Ho fatto infatti un paio di episodi come conduttore insieme a Silvia, noi la redazione genovese abbiamo preso il controllo per un paio di episodi e poi facciamo interventi periodici con varie interviste o notizie dalla redazione genovese, appunto. Ed è una cosa molto bella, secondo me sta andando molto bene, gli ascolti stanno salendo molto velocemente. Sicuramente il Rock House Podcast non ha mai avuto neanche la metà degli ascolti che ha Scientificast, quindi sono molto contento. In più c'è la costanza, che viene comunque pubblicato un episodio ogni 2 settimane, e poi diciamo che colmava un po' anche una lacuna del panorama del podcasting indipendente che assolutamente era da coprire. E quindi sicuramente PB e Simone, che hanno le redini di tutto quanto, stanno facendo un lavoro incredibile, bravissimi ragazzi. E poi insomma tutti noi altri che siamo stati poi fondatori di un'associazione culturale che si chiama appunto Scientificast, di cui tutti potete fare parte, potete andare sul sito, iscrivervi e diventare soci di Scientificast, siamo stati appunto, abbiamo intrapreso questa avventura e vedremo cosa succederà. Vi posso dare alcune anticipazioni: noi saremo presenti al Festival della Scienza di Genova dal 25 di ottobre al 3 di novembre, una roba di questo tipo, 4 di novembre, non mi ricordo più, comunque sono circa 12 giorni a cavallo del primo di novembre, e ci saremo sicuramente con diciamo una mostra para laboratorio messa su da Marco Zambianchi, altro podcaster di Astronauticast e comunque adesso parte della redazione di Scientificast, in cui si parlerà di astronautica amatoriale, del progetto Stratosfera, che vi invito a cercare su internet. Cercate Stratosfera, mi sembra .org o .com, non mi ricordo più, poi semmai metto il link nel note dell'episodio. E all'interno di questa postazione, dove si farà il lancio di un pallone, appunto, diciamo un pallone aerostatico con sensori e macchine fotografiche eccetera eccetera a bordo per superare la stratosfera o raggiungere la stratosfera, quindi vincere il record mondiale per un pallone amatoriale. E all'interno della postazione ci sarà appunto anche una specie di piccola redazione di Scientificast, un piccolo distaccamento di Scientificast che cercherà di coprire un po' degli eventi del festival e di carpire un po' di opinioni da gente comune o gente invece diciamo meno comune, invitati al festival, personalità scientifiche. Vedremo cosa si riuscirà a fare. Comunque ci saremo sotto questa veste, e io personalmente in realtà sarò parecchio impegnato, perché è passato il progetto che ho proposto insieme al mio laboratorio del CNR, sì, perché nel frattempo sono diventato assegnista, quindi diciamo che sono tranquillo per un anno dal punto di vista contrattuale, ma poi vedremo. Sto già cercando i fondi per il prossimo anno, però questo è un altro discorso. Comunque col mio laboratorio del CNR, con l'ISMAR di Genova, abbiamo partecipato al bando per il laboratorio del festival, è passato il nostro, che si tratterà appunto di fare una videobarca trasmessa via radio. Cioè noi avremo, io sarò in una sala, diciamo, conferenze con il pubblico e un grande schermo, e in collegamento radio avrò un subacqueo con collegamento audio e video. Il fondo del porto di Genova ci farà vedere cosa nasconde il melmoso porto di Genova, che nasconde sorprese. Quindi se volete venire a dare un'occhiata a cosa c'è sotto il porto di Genova, venite, l'evento è aperto a tutti, potete partecipare e andrà avanti tutto il periodo del festival. Quindi state con gli occhi attenti sul sito www.festivaldellascienza.it e vedrete, insomma, uscirà un programma, potrete già prenotarvi per gli eventi nei prossimi mesi, chiaramente non subito, ma intorno a settembre ci sarà già qualcosa. Però visto che magari voi ascolterete questo episodio intorno a settembre, io già mi metto con le mani avanti e anche dietro e vi preparo, insomma, vi anticipo che mi potrete trovare presso il CNR in località San Pier d'Arena a fare questo laboratorio con l'ISMAR CNR e quando potrò cercherò di presenziare anche un pochino nello stand, che non sappiamo ancora dove e come sarà, di Scientificast. Bene, dunque direi che possiamo andare avanti prima che la faccenda si faccia troppo lunga. Siamo già a quei tre quarti d'ora passati. Ora ci induriamo un po' per poi rilassarci con un pezzo un po' più rock dopo questa carrellata swing blues che abbiamo fatto oggi. E questi sono i... aspettate che ho un vuoto di memoria, perché questa scaletta io l'ho fatta veramente un sacco di tempo fa e quindi adesso non mi ricordo bene. Dunque, loro come si chiamano? Loro si chiamano... c'entravano i cani, eccolo lì, White Dog, infatti. White Dog, il disco si chiama FB e il pezzo si intitola Canned Revolution. Got it, water. Candle Revolution dei White Dog dal disco FB. Questi qua mi sembra che siano su Giamendo, mentre gli altri potrebbero essere anche Podsafe Music Network. Io adesso non mi ricordo, l'ho fatto questa scaletta mesi e mesi fa, quindi assolutamente non ricordo dove ho pescato tutti i pezzi, però mi piaceva ancora la scaletta e quindi ho deciso di mantenere questa. Bene, direi che siamo quasi alla fine, insomma siamo a 50 minuti, incomincio a essere anche un po' stanco perché comunque non ero più abituato a stare davanti a un microfono. Inoltre devo andare in qualche modo, andrò in autobus a fare la spesa perché domani ci sarà una riunione di redazione a Lodi, nella, appunto, nella città natale, credo natale, comunque dove abita PB, e quindi ci riuniamo per un pranzo conviviale e parliamo un po' del futuro, presente e magari anche del passato della nostra associazione culturale Scientificast, a cui vi ricordo che voi potete tranquillamente iscrivervi dal sito scientificast.it. quindi se siete in astinenza, i pochi che potrebbero essere in astinenza del Rock House Podcast, potete seguire comunque qualche diciamo l'aspetto scientifico del biologo saccente, in cui proprio si saccentizza al massimo, che sarei io, su Scientificast periodicamente, non tutti gli episodi, però ci sono abbastanza spesso, e comunque gli episodi, anche quando non ci sono io, effettivamente sono molto molto belli, quindi sono godibilissimi. C'è stato l'ultimo in cui si spiega il bosone di Higgs, che tra l'altro ve lo dico giusto a voi, no? Visto che tanto è una cosa confidenziale, io ancora non riesco a capirlo, non riesco, c'è sempre qualcosa che mi sfugge. Ho guardato video, ho letto cose su Scientifica, se lo spiegano in maniera anche molto semplice, cioè, ma è proprio una cosa mia, non ce la faccio. Un po' come i nodi, io non so fare i nodi o le trecce, questo non so fare le trecce, è un problema. Quando si ha una bimba di 5 anni, fare le trecce incomincia a diventare complicato, cioè se non le sai fare. E quando ti chiede papà mi fai una treccia, è sempre un po' imbarazzante dirle non le so fare, e questo mi rendo conto che sia facile, come anche i nodi, dovrei sapere fare i nodi, sono anni che sono in ambito marino, cavolo, ne ho viste di persone che sanno fare i nodi, hanno provato ad insegnarne, ma non c'è niente da fare, non riesco a imparare a fare i nodi, e quindi non so se riuscirò mai a capire fino in fondo cosa diavolo vuol dire tutta la storia del bosone di Higgs. In realtà la grandi linee l'ho capito, però nel particolare non ci riesco. Secondo me mi mancano troppe basi di fisica, o forse pretendo troppo, forse voglio capire troppo. È un mio difetto un po' generale, diciamo, di voler capire troppo. Va bene, io direi che possiamo passare un ultimo pezzo per decomprimerci un po'. She's Wild, quindi lei è selvaggia. Potrei dedicarlo a qualcuno, ma eviterò, però comunque credo che qualcuno abbia capito a chi mi riferisco, e quindi sentiamoci People Coyote con She's Wild e poi torniamo per i saluti. You woke up with blue eyes soon enough you'll see. It takes so long, and I don't feel so scared, feel free. Make a mess of my life, I run into the knife every time. You know you're just wild. We wake up tomorrow, alone again. Find yourself with her in the lion's den. She'll make a mess of your life if you've only had her once. You'll never have her twice. You know she's just wild. Done when she she's just wild. In the middle of the night, I snuck into your room and we danced. It only took one look from you and I knew, yes, I knew. One night in those arms wasn't enough. Those eyes so blue. You woke up with blue eyes someday you'll see. Southern meat style and a southern heartbroken touch. She opens the heavens to a man like me. The darkness of her past means nothing to me. How bad do you want it? You go through all the moves like the pro that they say you are. Just a rain of wet tears from the skies you lay with her and I. Make a mess of my life from me into the night every time. She drives me wild. She drives me wild. Wild. She's wild, the People Coyote. Bene. E dunque, mi sono dimenticato di aggiornarvi su una piccola novità che mi riguarda, che potrebbe essere interessante per chi vive in località, diciamo, più o meno genovese. Infatti da settembre incomincerò le prove per il Rocky Horror Show. Ebbene sì, farò due personaggi a quanto pare, farò sia Eddie che il dottor Scott. Insomma, tutto nasce perché per la biologia, in realtà, perché a me piace moltissimo Rocky Horror Picture Show, e Rocky Horror Show l'ho visto anche a teatro con la compagnia londinese, è una cosa bellissima. E durante una lezione di biologia marina ho conosciuto una ragazza che fa parte del, diciamo, dell'associazione di transilvani che sono, diciamo, quelli del fan club, poi in realtà è un po' una cosa diversa, però comunque fanno la rappresentazione del Rocky Horror. Una volta lo facevano ogni settimana in un teatro genovese, adesso ne fanno 4-5 repliche l'anno. E dal prossimo anno sarò parte anch'io del cast, unconventional cast. Quindi insomma, sono molto contento di incominciare questa avventura del Rocky Horror. E insomma, venite a vedere gli spettacoli. La prima sarà ad Halloween al Teatro Govi di Bolzaneto, per chi è di Genova lo sa. Chiaramente è a pagamento, però vi assicuro che è molto divertente. Se avete già visto qualcosa del genere, c'è ogni settimana, credo ogni venerdì mi sembra, ogni non so adesso che giorno, comunque al Mexico a Milano fanno la stessa cosa. È una rappresentazione un po' particolare, cioè viene proiettato il film nel background e di fronte avviene la rappresentazione teatrale tutta, diciamo, in playback sincronizzata, che non è una cosa per niente banale dello spettacolo. Ed è molto carina questa modalità, perché comunque una cosa bella del Rocky Horror a teatro è proprio che coinvolge il pubblico, cioè quello che succede sul palco succede teoricamente, comunque, diciamo, succede anche nel pubblico. Quindi se piove vengono bagnati gli spettatori, eccetera eccetera. E questo tipo di rappresentazione è molto più interattiva, quindi c'è quella, la base del film, ma poi c'è tutto il lato, diciamo, di contatto col pubblico e presenza dei transilvani tra il pubblico, che rende il tutto più coinvolgente e più divertente. Quindi magari, che ne so, ci vedremo a teatro ad Halloween o nelle altre date, che adesso non mi ricordo più quando sono, comunque ce ne sono 4-5 sparse per tutto il 2012-2013. e al Teatro Govi di Bolzaneto, quindi accorrete, accorrete numerosi. Bene, ora diciamo che siamo giunti all'ora e quindi è il momento dei saluti, e quindi, come di consueto, perché assolutamente non voglio staccarmi da queste buone abitudini, facciamo partire la nostra base. Oh, ce l'ho fatta, ho registrato un episodio, ora bisognerà vedere se riuscirò a metterlo online. Questo sarà la parte più difficile, e soprattutto bisognerà vedere se ci saranno ancora ascoltatori, sono disposti ad ascoltare gli sproloqui di un biologo secente. È stato bello fare questo episodio, perché ne avevo un po' bisogno. Sapete, sono un forte sostenitore del potere terapeutico del podcast. Spero che vi abbia intrattenuto per questa oretta, magari mentre facevate le pulizie. E quindi saluto e ringrazio soprattutto Zach, che mi ha mandato il contributo, che mi ha anche spronato a fare questo episodio. Ma poi ringrazio un po' di persone come Nima, che ho sentito ieri sera suonare a Lavagna. Ciao Nima, spero di sentirti di nuovo presto, magari con tutto il gruppo al completo e per più di 3-4 pezzi, come è stata l'ultima volta. Salutiamo tutti i potenziali nuovi ascoltatori, salutiamo Francesco, che magari sarà contento di questo ritorno del Rockhouse Podcast, che ogni tanto mi chiede. Salutiamo tutti i membri dell'Unconventional Cast che magari mi ascolteranno, quindi salutiamo Paola, Laura, Manuela, che è la regista, e tutti gli altri. Soprattutto però devo ringraziare chi è restato all'ascolto di questo episodio sconclusionato fino alla fine. Quando si sta lontani dal microfono, tra l'altro ho ascoltato recentemente gli episodi di Nowherecast e l'ultimo episodio molto carino, quello prima è stato veramente faticoso, ragazzi, per voi rimettervi al microfono, quindi voi capite cosa vuol dire. Speriamo di rivederci anche con voi presto. Ho perso un po' il polso del mondo del podcasting in questo periodo, ma spero piano piano di rientrare un po' in contatto con questo mondo, al di là di Scientificast, chiaramente, che quello è una costante. Ed ho raggiunto il momento veramente di salutarvi, quindi come di consueto aspettiamo che finisca la base, e poi da Julien un saluto a tutti voi.